Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, Buonasera a tutte e tutti e tutto lu ascoltatore di Radio Wombat, qui Addu con voi, questa è Nervature. Oggi infatti siamo lunedì, sono circa le 19 e qualcosa e come ogni lunedì appunto state ascoltando Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio, biologia, botanica, progettazione e tante varie altri spunti e ragionamenti. Oggi puntata stranamente insolita, nel senso che sono da sola, a differenza dell'ultimo periodo in cui invece mi avete spesso sentita accompagnata, mia grande gioia, da altre amiche e amici. Quindi oggi invece vi sorbite solo la mia voce, ma spero che sarà una voce comunque piacevole. Ovviamente per prima cosa vi ricordo i contatti della radio. Siamo su, quindi, Radio Wombat, siete anzi, quindi la radio libera e autogestita fiorentina. Ci trovate dal nostro sito radiowombat.net, che vi invito calorosamente a spulciare, a vedere tutti i podcast che pubblichiamo di tutte le puntate, di tutte le trasmissioni, comprese anche nuove interessantissime trasmissioni. Anche in collaborazione con altre radio sorelle, quindi vi lascio la suspense a voi di scoprirlo. Se invece magari siete in macchina o state per uscire di casa, sappiate che ci potete provare a ascoltare sulle frequenze AM alle 13:59 qualora siate in area fiorentina. Dal sito, altrimenti se già forse lo state facendo trovate lo streaming. Ma cosa interessantissima, dato che sono in diretta oggi qui con voi, potete scrivermi e chiacchierare con me, farmi domande, appunti o riflessioni dal pad, che è il foglio di testo condiviso col quale parlare con me e con tutti gli altri delle dirette. Lo trovate quindi da direttawombat.vado.li. E altrimenti questo stesso link lo trovate anche dalla sezione contatti del sito radiowombat.net. Ebbene, bene, era un po' di tempo che non facevo la carrellata dei contatti tutti insieme, devo dire è un po' faticosa, forse anche per voi. E, bene, quindi oggi lunedì 6 maggio, ancora non l'avevo detto, in questa luce splendente, bellissima, evviva la primavera, non vedevo l'ora. Che bello che non è buio, è una cosa bellissima questa. Dunque, allora, di cosa parlerò qui con voi oggi? Diciamo che è una puntata che facciamo insieme, io e voi ascoltatrici, poiché è la prima volta, quindi mi butto un po' in questa grande impresa, dal mio punto di vista, di fare un audiolibro. Già altre volte vi ho letto così parti, spezzoni o articoli e così via, però ecco, forse già sapete che ecco, non è che io sia proprio un'attrice, però insomma ecco, ci metto sicuramente del mio meglio. Allora, il libro che vi avrei portato oggi è un libro in realtà di cui vi ho già parlato e di cui devo dire vi ho anche già letto qualche citazione. E il libro è E il giardino creò l'uomo, questo è il titolo nell'edizione italiana, io rimango fedele alla copertina, di Jorn de Pressy. È stato pubblicato la prima volta nel 2012 e rieditato altre volte. L'edizione che ho io è quella di Ponte alle Grazie Saggi, un'edizione molto carina, quasi tascabile, perché è un libro piccolino, corto. Infatti, ecco, me lo sono scelto bene come primo audiolibro, come vedete non è un tomo di 500 pagine. E, dunque, quindi è un libro di cui vi ho già parlato in un po' di mesi fa nella puntata riguardante il filosofo e scrittore e giornalista, anche in un certo senso, Marco Martella. Quindi ve la potete andare a rispulciare se avete curiosità. Prefazione. Ecco l'ennesimo trattato scritto da uno dei nostri aristocratici, giardiniere dilettante e proprietario di un parco immenso, per rifilarci le sue bizzarre idee sui giardini. Mi sembra già di sentirli i commenti del lettore che sfoglia questo opuscolo, raccolto sullo scaffale della libreria. Commenti veri e falsi nello stesso tempo. Falsi, perché io non appartengo né all'aristocrazia inglese né, come spesso il mio nome fa credere, a quella francese. Sono nato più di 70 anni fa a Reykjavik, in Islanda, isola che ho lasciato a 18 anni diretto in Inghilterra, la patria dei giardini. Veri, perché sono sì un giardiniere dilettante, titolo di cui vado molto fiero. Quanto al mio parco, che si estende per appena 4 ettari, si trova nell'Oxfordshire. È il giardino di Greystone, di cui avrete certamente sentito parlare, se l'arte dei giardini vi interessa anche solo un poco. Infine, per ciò che concerne le mie idee sul giardinaggio, lo ammetto, anche a me, talvolta, sono leggermente bizzarre. Bambino ho scoperto i giardini grazie ai romanzi inglesi e francesi che mia madre faceva arrivare dal continente e che adoperava, dopo averli letti, per insegnarmi le lingue straniere, la sera accanto al caminetto. Quelle descrizioni di luoghi incantati, carichi di profumi e di fiori, dai colori meravigliosi, mi facevano forse sognare? Non proprio. Cosa significavano per me? Se si eccettuava qualche sparuto orto di campagna, non c'erano giardini nella mia isola, battuta senza tregua dai venti. I fiori erano rari, gli alberi rachitici, i paesaggi vuoti. Un giorno, quanti anni avevo? 14, 15? Mentre camminavo senza meta sulle colline nude, perduto in chissà quali pensieri tormentati come spesso accade durante l'adolescenza, mi imbattei in un boschetto di betulle. Erano disposte in cerchio, un cerchio perfetto, come tracciato col compasso. Le loro cortecce argentate, biffate di nero, attirarono prima i miei occhi, poi la mia mano. All'interno del cerchio, colpite da un raggio di sole, mi apparvero in mezzo all'erba e al muschio le corolle color malva di minuscoli ciclamini. Le betulle mi invitavano a entrare in quel cerchio. Non appena lo feci, mi sentii invadere da una gioia indescrivibile. Sì, invadere è il termine esatto, perché quel sentimento penetrò in me. Mi trovavo forse presso la dimora di un elfo o di una delle tante creature senza nome che abitano la mia isola. Mi sedetti su quel morbido tappeto, appoggiai la schiena a un tronco e chiusi gli occhi. Quando li riaprii, mi parve che inspiegabilmente l'universo intero mi si offrisse alla vista. Potevo vedere oltre la valle che si stendeva davanti a me, oltre la cresta rossastra dei vulcani, fino al mare, dove un peschereccio navigava placido, e ancora oltre, per quanto potesse sembrare strano, fino alle coste dell'Europa. La terra nella sua vastità là fuori e quel cerchio felice, come un ventre materno, un luogo protetto. «È dunque questo un giardino?» dissi a me stesso, la gola serrata. Mentre il giorno muore, osservo le tenebre calare su Greystone, fuori dalla finestra del mio studio. Le cime delle querce, dei sicomori e dei carpini, che io stesso ho piantato, iniziano a prendere i colori autunnali. Guardo le loro sagome sfumate dalla nebbia e rivedo quegli alberi dal tronco bianco e il tappeto di ciclamini che m'accolsero quel giorno. Saranno ancora là, in quella valle solitaria ai confini del mondo? Un filo invisibile unisce questi due luoghi, il giardino che per primo mi ha incantato e che non era opera dell'uomo, e il giardino che ho creato io stesso. So bene che Greystone, di cui vado tanto orgogliosa, e che paesaggisti e giardinieri vengono da lontano a visitare, è null'altro che la copia del primo, la sua eco attraverso il tempo e lo spazio. La felicità che dona è la stessa. Ancora oggi, quando vi passeggio, mi accade, proprio come quella prima volta, di provare la sensazione che nel giardino il mondo può trovare, come per magia, un ordine felice. Se fossi filosofo, direi addirittura un senso. Ma quale senso? In cosa consiste questa gioia traboccante, questa abbondanza di vita? Ancora oggi non sono in grado di rispondere. Sono filosofo, ma questo so. Nel nostro tempo, troppo pieno di sé e delle sue conquiste, in questa nostra società in cui sembra che il destino di qualsiasi attività sia generare ricchezza, soddisfare desideri per lo più superflui, abbiamo dimenticato un bisogno, tanto essenziale quanto mangiare o bere, ovvero abitare un mondo dotato di senso. Parlo naturalmente del nostro bisogno di spiritualità. Oh, me ne rendo conto, questa parola desueta suona sospetta alle orecchie dei devoti della modernità. Evoca immagini tenebrose di cattedrali gotiche, di tribunali dell'Inquisizione, di vecchi bigotti malevoli dai volti coperti di rughe. Si associa immancabilmente all'ideale romantico più retrogrado, quello del ritorno a un passato di superstizione, abuso e violenza. In me, invece, essa evoca lo stupore di fronte alla magia del mondo e visioni di giardini ricolmi di una bellezza benefica alla quale nella nostra società democratica ha accesso un numero sempre più esiguo di persone. Nella distanza, ogni giorno più grande, che abbiamo messo tra noi e la natura, vediamo gli effetti nefasti di questa perdita di spiritualità. Ci siamo allontanati, forse irrimediabilmente, dal mondo naturale, sano e vigoroso, in cui il mistero della vita si manifesta in tutta la sua luminosa pienezza e che per millenni è stato la dimora degli uomini. Presto lo scenario delle nostre vite sarà esclusivamente l'ambiente artificiale della città moderna. In quel labirinto sordido e turbolento che chiamano Londra, a Charing Cross, mentre affrettiamo il passo verso il treno che ci riporterà nei suburbi o sul marciapiede di Oxford Street in mezzo alla folla e agli edifici neri di smog, noi siamo sempre più soli. E non è molto diverso nei villaggi e nelle campagne, sovente sfigurati da un'agricoltura meccanizzata e senza anima, dalla bruttezza delle officine e dei manifesti pubblicitari da poco in voga. Ormai siamo circondati da uno spazio inerte che non esprime più nulla, che non ha niente da raccontare ai nostri cuori fattisi sordi, ma pur sempre assetati di storie e di mistero. Può essere che la terra stessa, gli animali, le pietre, i fiori, senta la nostra mancanza, percepisca la scomparsa dello sguardo amoroso dell'uomo. Così l'uomo moderno, che già conosce nel proprio intimo la separazione di corpo e mente, ragione e sentimento, ogni giorno si allontana un poco di più dal mondo che lo circonda. Non avendo più accesso alla propria umanità, si limita a funzionare come la macchina che è divenuta il suo modello in un universo che egli è completamente estraneo. Ecco, solo i giardini resistono al naufragio della modernità. Di questo tratta il libro che tenete fra le mani, di come solo questi luoghi sfuggano ai disastri della storia, invitandoci in rifugi incantati, lontani dalle perversioni della civiltà. La sua, dunque, è una grande ambizione e forse sopravvanza i miei poverissimi mezzi, dimostrare che nel nostro mondo esistono ancora luoghi reconditi in cui possiamo ritrovare, nel dialogo e nella familiarità con la natura, nei nostri cuori, ciò che ci rende umani e degni del bello che la vita offre. Prima di continuare, però, mi scuso con il lettore se le mie argomentazioni potranno apparirgli faziose. Sono già stato rimproverato per le mie prese di posizione radicali e per la mancanza di obiettività che permea le mie idee in materia di giardini. Lo ammetto, sono troppo vecchio per perdere tempo con l'obiettività e il distacco critico. Peraltro, confesso di non aver mai compreso a cosa serve veramente questo famoso distacco. Un argomento come quello del giardino, che tocca le corde più intime, sensibili, talvolta contraddittorie del nostro essere, ha forse bisogno di rigore scientifico? In queste pagine, allora, io offrirò esclusivamente i frutti delle mie riflessioni, maturati negli anni grazie all'amore e alla pratica del giardinaggio. Si tratta di ciò che di più intimo vi è in me. E nonostante il mio tono possa apparire perentorio, lo farò con tutta l'umiltà di cui sono capace. Questo libro non è dunque l'ennesimo trattato che ha per oggetto regole compositive, ma piuttosto una meditazione su quell'arte dei giardini che è molto più di un'arte, pur accontentandosi di uno status più umile rispetto a quello delle arti patentate, tanto umile che spesso viene considerata un semplice passatempo. È una raccolta di liberi pensieri su tutto ciò che nell'esperienza del giardino ci chiama in causa come esseri umani. Non ho regole da insegnare al lettore, perché nell'arte dei giardini non ve ne sono, a eccezione di quella che impone, impone rispetto per il luogo in cui operiamo. Quando si crea e si mantiene un giardino, bisogna sempre fare atto di modestia. Il luogo ha origini lontane, più lontane delle nostre. Possiede una storia in cui abbiamo il dovere di entrare in punta di piedi. A parte questo, ripeto, niente regole. Non tratterò neppure di tecnica, benché sia appassionato di orticoltura. La tecnica in sé mi annoia. Il giardinaggio è un esercizio spirituale, una maniera di guardare il mondo, di interrogare la natura da vicino. Non è tecnica, ma poesia. E qui vedo il lettore scuotere ancora la testa. Che sia il giardiniere esperto o dilettante, magari abbonato a Gardening Illustrated, commenterà tra sé e sé. Quante baggianate! Neanche se il giardinaggio fosse un affare da poeti. non consiste forse nel conoscere le piante e le loro necessità, le diverse specie di suolo, le tecniche per moltiplicare per talea o per innesto, potare, trapiantare, debellare i pidocchi, le cocciniglie? Tutto ciò è, come negarlo, fondamentale, per la vita del giardino. Ma questo lettore ha imboccato il sentiero sbagliato. Ragiona come un uomo del suo tempo, per il quale è sempre questione di conoscenze da padroneggiare. Ebbene, no. Il lavoro del giardiniere non conosce interruzione tra l'operato della mano, dello spirito e del cuore. Quando rimescola sapientemente il terreno con le dita, allargando lo scavo in cui metterà a dimora una pianta, il suo spirito esplora il mistero di quella profondità accogliente, umida, formicolante di vita. Mentre diserba e pensieri, ricordi e fantasticherie gli attraversano la mente, si interroga sulla vita e si lascia interrogare da essa. Il giardinaggio, caro lettore, non è che un dialogo ininterrotto con la terra. Certo, come dicono le riviste di giardinaggio più sempliciotte, se nel mondo vi è ancora un poeta, questi è proprio il giardiniere. Un poeta felice, un idealista che per qualche ora al giorno vive immerso nel proprio ideale e senza posa lo trasforma in realtà grazie alla compiacenza della natura. E mentre lavora dimentica tutto, compreso se stesso. Anche in questa sera d'autunno, l'erba non smette di crescere nel prato attorno a lui, mentre le foglie approfittano degli ultimi raggi di sole. Su un ramo, un frutto sta maturando, ciliegia o mela, arrotondandosi sotto la volta del cielo. La terra odora di fresco, di foglie morte bagnate, della notte che si approssima. E il giardiniere si ferma, appoggiato alla zappa, contempla con tutto comodo il giardino al calare del buio. Mormora parole che lui stesso non comprende. Qualche formula pagana, senza dubbio, ritornata a galla da tempi immemorabili. Forse nel suo sorriso c'è un'ombra, la traccia di qualche tormento, un leggerissimo dolore. Avrà percepito la prima fragranza dell'inverno, il primo brivido di freddo del giardino? Il giardiniere ama l'inverno. Prova affetto per i lunghi mesi in cui non vi è altro da fare che portare pazienza, osservare, contemplare l'intrico dei rami spogli, il sole basso all'orizzonte che si riflette sulla superficie dello stagno. Ma l'inverno è melanconico e forse il giardiniere si sta interrogando. Mio bel giardino, ci sarai ancora la prossima primavera? Davvero ritornerai? Thank you. has gone down. Through you I got heaven on earth. Boy, you're my paradise. The very beat of my heart, only you can ease my mind. Whenever I feel sad and blue, I'll be happy again if only I look at you. I've never felt so deep and long, never been so close to gone. Questa che avete appena sentito è Ayo, e la canzone è Never Been, bellissimo, bellissimo pezzo. Spero che voi ascoltatori state apprezzando l'audiolibro. Dunque, non è un audiolibro classico perché siamo su Radio Wombat e quindi io faccio questa, spero non traumatica, interruzione ricordandovi che vi sto leggendo a tutti, tutto e tutte voi, il libro E il giardino creò l'uomo di Jörn de Précy. Però non ho detto prima che in realtà questo è il titolo in italiano, ma il titolo in francese, che è l'edizione originale del libro, è Le Jardin Perdu, che vuol dire il giardino perduto, perso, insomma. Vabbè, non piaceva come titolo agli editori italiani, per cui hanno cambiato titolo, ma questo era per dare un quadro un po' più completo. Io per ora vi ho letto la prefazione e quindi già si capisce veramente tanto del libro, ma direi che non ci resta che continuare di nuovo e rimmergerci in queste parole, spero veramente coinvolgenti. Thank you. le divinità del luogo e il bosco sacro, magia dei giardini del Rinascimento. L'universo ormai non ha più misteri, la spiritualità dei popoli non civilizzati. Ricordo dell'Islanda, cosa sono diventati gli dèi. Capitolo Genius Loci. Ci fu un tempo in cui il mondo era abitato dagli dèi. Nello spazio che gli uomini condividevano con loro, l'invisibile si mescolava costantemente con la materia visibile. Era la presenza di quelle creature ben più potenti degli uomini ad assicurare la stabilità del cosmo. In quel mondo sacro, la vita di ciascun essere umano era dotata di senso. Voi siete sulla terra, dicevano i saggi e i poeti, perché così vogliono gli dèi. Perciò, per i popoli dell'antichità, qualunque angolo del mondo era pieno di spiriti, di divinità, più o meno importanti, creature inafferrabili, più o meno amichevoli, con le quali bisognava, in un modo o nell'altro, venire a patti. Per i greci, le sorgenti erano la dimora di ninfe selvatiche. I fiumi, vegliardi, vigorosi e barbuti, capaci di passare dalla forma umana a quella liquida. Gli alberi nascondevano le driadi, le cime dei monti più alti ospitavano le residenze dei più potenti fra gli dèi. I romani, per parte loro, erano convinti che ogni luogo fosse abitato da un genio, un genius loci, divinità minore garante dell'identità del luogo stesso, della sua singolarità. Nullus enim locus sine genio est, diceva il poeta Servio, non vi è luogo senza il suo genio. Così, quando ci voleva stabilire in un posto, ci si voleva stabilire in un posto, il romano doveva innanzitutto interrogare il genio che vi risiedeva, negoziando per averlo a tutti i costi dalla sua parte. Dispiacere alla piccola divinità equivaleva a votare la futura casa alla catastrofe. Bisognava dunque iniziare dalla comprensione del sito sul quale sarebbe stata costruita, mettersi in ascolto, osservare, prendere nota delle caratteristiche del terreno e registrare il volo degli uccelli sopra di esso, penetrare al di là delle apparenze lo spazio misterioso in cui il divino si celava. Pur essendo guerrieri e ingegneri, i romani sapevano che bisognava dar prova di umiltà di fronte al mondo, che non si entra mai in un posto da conquistatori, ma da invitati. Per loro, come per tutti i popoli antichi, la peggiore delle catastrofi sarebbe stata vivere su una terra abbandonata dagli dèi, spogliata del sacro, privata del senso e quindi inospitale. Certi luoghi venivano riservati esclusivamente alle divinità. I templi, naturalmente, ma anche i giardini, perché era in seno alla natura, inquietante, meravigliosa e nutrice, che dall'alba dei tempi l'uomo avvertiva la presenza del divino. Rinfrescarsi di quando in quando a quella fonte scarsa era un bisogno vitale. Non possiamo non ammirare la saggezza che spinse i greci prima e poi i romani a istituire i boschi sacri, talvolta persino nel cuore delle città. Che ne sarebbe stato di Roma se fin dalla sua fondazione non fossero stati dedicati agli dèi della terra quei frammenti di foresta primordiale attorno ai quali poco a poco si sviluppava la metropoli? Quei giardini pubblici, i quali, è evidente, non hanno nulla da spartire con i nostri attuali parchi urbani di cui sono comunque gli antenati, erano luoghi selvaggi. La natura vi veniva lasciata in libertà, benché la mano del giardiniere intervenisse di tanto in tanto per evitare che si trasformassero in foreste impenetrabili. Nei recessi di quei luoghi intoccabili capitava di incontrare dei simulacri, mezzo nascosti dalla vegetazione, e l'edera dove spuntavano cespugli di alloro. Al centro delle radure si ergevano altari dedicati a dei, spesso di origine etrusca, talvolta anonimi. Là, immersi nella natura e nel mistero del sacro, gli uomini si sovvenivano della propria origine. Il patto con la terra si rinnovava. Siamo in grado di immaginare la forza dei sentimenti che luoghi siffatti dovevano suscitare nello spirito di colui che vi penetrava? Io non credo. I nostri sensi, troppo sofisticati, non sono più capaci di emozioni tanto forti e barbare. Per non parlare dell'angustia spirituale dell'uomo moderno o della paura che, non ho dubbi, susciterebbe in noi una natura così poco addomesticata. Possiamo però farcene un'idea visitando i boschi di certi parchi rinascimentali, giunti a noi miracolosamente intatti, benché in un meraviglioso stato di abbandono. Presso la Villa Giusti, a Boboli, o la Villa Lante, troviamo ancora statue delle fattezze perfette divorate dai licheni e dal muschio e quasi interamente sepolte sotto la vegetazione. Dietro i rami dei lecci o dei lauri, le divinità di sasso ci rivolgono il loro sguardo sorridente e pietrificato, come lo era al principio dei tempi. In questa solitudine, ancora risparmiata dalla turba dei turisti, un satiro di pietra grida al cielo la sua muta gioia. L'acqua che da secoli scorre nelle fontane è, verrebbe da dire, il brodo primordiale. Ma da dove scaturisce? Da sacre fonti, non v'è dubbio, abitate dalle ancelle di Diana. Grotte buie e umide adorne di sculture, pietre preziose e conchiglie risvegliano nel visitatore il senso del meraviglioso. In fondo a questa felicità, di cui tanti viaggiatori, pittori e poeti inglesi sono stati testimoni in passato, non si nasconde forse una strana inquietudine? Sì, talvolta questi giardini risultano poco rassicuranti e anche se siamo soli, vi percepiamo qua e là altre presenze, più discrete, un crocchiare di foglie morte o di rami secchi sul punto di rompersi, il levarsi di un alito di brezza, un eco di passi sulla ghiaia. Chi sarà? Vi girate, non vedete che statue, ma da questi dei non vi è nulla da temere. I giardini dei dintorni di Roma, Venezia e Firenze, custoditi da anziani guardiani assopiti sulle loro seggiole, possono regalare solo piacere. E quante di queste divinità ho incontrato durante le peregrinazioni italiane della mia gioventù? Afroditi pensose, Apolli dalla vitalità trionfante e persino un giovane Hermes in un giardino di Lucca che fu particolarmente benevolo nei miei riguardi e di cui non parlerò qua. Ma penso soprattutto a Bomarzo, nei pressi di Viterbo. Fatto incredibile, quel meraviglioso giardino è praticamente sconosciuto. Non vi è libro sui giardini d'Italia che lo menzioni. Il principe Orsini, che lo ideò nel XVI secolo, lo definiva il suo sacro bosco. Contrariamente ai grandi giardini dell'epoca, non ha pianta ortogonale. Niente statue di Pomona o di Ercole, ma sculture stupefacenti, gigantesche, indecifrabili, creature colte nel momento di inaudite metamorfosi. Per dimensione e bizzarria, esse risvegliano nel visitatore un senso di apprensione vicino al malessere di cui non è in grado di identificare le ragioni. Un luogo unico al mondo come qualsiasi vero giardino. All'ingresso, scolpita nella pietra, si legge questa iscrizione, ammirevole per la sua fiera saggezza. Il sacro bosco a lui solo e a nessun altro somiglia. Questi strani giardini erano fatti per destabilizzare dolcemente i sensi, ma anche per rendere visibile il sacro che ancora si percepiva nella natura e in certi luoghi eletti, in quell'epoca così feconda di pittori, alchimisti e panteisti. Era chiaramente solo l'eco del potente senso del sacro che provavano i popoli dell'antichità. Senso che però abitava ancora nei cuori degli ideatori di giardini rinascimentali. Il fuoco sacro ribolliva loro nelle vene, alimentando sogni favolosi e spingendoli a compiere grandi imprese dello spirito. Oggi, con condiscendenza sfumata di disprezzo, chiamiamo questa visione sacra del mondo animismo. I nostri filosofi patentati spiegano che in una società civilizzata come la nostra, essa non gode più del diritto di cittadinanza. Ci rammentano che la ragione, dopo 2 o 3 secoli di battaglie, ha finalmente trionfato sulla credulità, la luce delle tenebre e via discorrendo. Non saremo certo tanto folli da voler tornare sui nostri passi. C'è chi sospetta che la modernità abbia rimpiazzato le superstizioni del passato con quella borghese del progresso. Ma naturalmente si tratta solo di nostalgici, disillusi, inaciditi o poveri malati. L'idea che l'umanità possa regredire a uno stadio precedente della sua evoluzione, dice costernato lo scienziato darwiniano, è semplicemente contro natura. E anche se cercassimo davvero di tornare sui nostri passi e rinunciare alle conquiste del progresso, come potremmo ritrovare l'innocenza perduta? Niente più dei per noi, dunque. Tutt'al più il diritto di credere nel Dio delle religioni monoteiste, il quale, ritiratosi nel suo cielo astratto, separato dal mondo degli uomini, ha sgomberato il campo dalle divinità puerili e dall'identità spesso confusa dei politeisti. Ma anche queste grandi religioni e il loro Dio solitario sembrerebbero destinati a scomparire. Presto l'uomo rimarrà solo, attorniato da materia inerte, padrone assoluto di una terra che ai suoi occhi è come cosa morta. Perché, ahimè, insieme alla divinità, grandi e piccole, dalla terra è scomparsa anche la poesia. Una sorgente senza ninfe è solamente una sorgente. Un albero senza driadi, nient'altro che un albero. E la vetta di una montagna dove non dimorano dei, semplicemente la cima di una montagna. Ai nostri occhi il mondo non ha più magia. Alcuni anni or sono, un chimico francese, un certo Marcelin Berthelot, ha pronunciato questa frase, che è in se stessa un manifesto della nostra era materialistica. Ormai l'universo non ha più misteri. Queste parole, in cui si esprime tutto l'entusiasmo della modernità vittoriosa, risuonano al mio orecchio come una sinistra campana a morto. Nonostante ciò, la Terra continua a esprimersi. E non può fare altrimenti, perché tutto ciò che è vivente ha bisogno di manifestarsi, che sia uomo, albero o sasso. Ma poiché non è più guidato dagli dèi e ha voltato la schiena alla natura, l'uomo non ascolta più. Quando il mondo gli parla, crede di udire l'eco della propria voce. Non molto tempo fa, un celebre critico d'arte, grande umanista e partigiano del progresso, mi ha spiegato che se certi paesaggi ci appaiono talvolta traboccanti di vita, è solo perché sono stati dipinti dagli artisti o cantati dai poeti. Sono stati loro a infondervi la charme. La natura in sé è muta. Il vostro genius loci non esiste affatto, signor De Plessis. Non è altro che una figura poetica di infimo livello. ha esclamato quel piccolo Narciso dai tempi moderni. Contrariato dal fatto che io ridessi di siffatta assurdità, ma è il caso di ridere di quelle sue parole? Non dovremmo invece leggervi funesti presagi? Ho detto, non bisogna pensare che al giorno d'oggi nessuno creda più alle divinità dei luoghi. Per rendersene conto basta cambiare continente. In Giappone i seguaci dello shintoismo vi spiegheranno che il mondo è abitato dai kami, le divinità della natura che si celano all'interno delle cose e soprattutto delle piante, dei corsi d'acqua o delle rocce. Gli uomini li temono naturalmente perché ciò che non è tangibile è imprevedibile e non sempre avvicinare i kami è cosa agevole. Ma è la loro presenza a garantire la continuità dell'universo visibile e quindi la vita. Come lo era per i romani e i loro genius loci, anche qui la loro benedizione è necessaria. Per questo un giardino ben fatto è, secondo i giapponesi, quello in cui gli spiriti si trovano al loro agio e da cui non desiderano andar via. Da sempre il giardiniere orientale sa che non deve sognarsi di sottomettere la natura ai propri disegni, sempre che un desiderio tanto sciocco possa affacciarsi alla sua mente, e che nel suo giardino deve lasciare spazio all'invisibile e all'imprevisto. Al contrario di noi, gli orientali non espellono il mistero dal loro mondo, ce lo invitano e pregano affinché vi rimanga. Da qui, senza dubbio, deriva il senso di benessere quasi sovrannaturale che, a detta dei visitatori occidentali, categoria di cui purtroppo io non faccio parte, si prova in quei luoghi. In un libro che ha per oggetto le popolazioni dell'Africa, un testo piuttosto noioso, sprezzante verso le civiltà di cui tratta, ma ricco di informazioni sorprendenti, ho letto questa massima attribuita a non ricordo quale tribù. Ascolta gli antenati, lo spirito degli alberi, gli animali. Ascolta tutte le forme di vita che ti parlano. Il mondo, per il selvaggio africano, è un testo sacro e lo stesso è per l'indiano d'America o per l'aborigeno australiano. Persuasi come sono che la terra rechi i segni visibili della parola degli dèi o degli spiriti degli antenati. Come potrebbero voler abitare una terra spogliata del sacro, di un centro, di regole immutabili o di verità? Di questi popoli diciamo che appartengono a civiltà primitive. L'aggettivo, ben inteso, non ha come potrebbe una connotazione positiva. Non significa innocente o ancora vicino allo stato originario o che ha familiarità con la natura, ma invece non ancora evoluto, allo stadio più basso della scala darwiniana dell'evoluzione umana. E dunque inferiore. Mentre scrivo di quelle credenze ingenue, ripenso alla mia infanzia. Rivedo i vecchi della mia cittadina perduta tra le nuvole dell'Oceano Atlantico, lontana, lontanissima dall'Europa civilizzata. Riascolto i loro consigli su come riconoscere in ogni roccia uno spirito, in ogni lichene la traccia di un linguaggio superiore, in ogni vulcano la dimora di una divinità che non ha affatto abbandonato la terra, e in un ruscello i sospiri di una strega innamorata di un bel giovane. Ci credevano per davvero? Certo che sì, sapevano di non poter fare diversamente. Quella credulità permetteva loro di vivere in un universo stabile, rassicurante e bello. E io ci credevo? Che domanda, ero un bambino. E se leggo in fondo alla mia anima, devo ammettere che non sono mai riuscito a rinnegare le creature favolose e il mondo incantato di quegli anni. A questo punto il lettore l'avrà capito, sono un nostalgico, per di più, essendo vecchio, mi sento in diritto di proclamarmi, senza vergogna e senza esitazioni, nemico del progresso, o come si usa dire oggi reazionario, come nell'accezione in cui intende Marx. Talvolta mi chiedo cosa siano diventati gli dèi, dove sono finiti, quale terre hanno scelto per il loro esilio. Sono tristi e inconsolabili, come re detronizzati? Si sentono umiliati perché gli uomini hanno dimostrato che, a conti fatti, non erano così potenti come li si descriveva? Ci guardano sempre, si aspettano qualcosa da noi? Sì, mi chiedo come giudicano noi, i loro protetti, che un bel giorno hanno deciso di ribellarsi, ignorando che stavano rinunciando a un mondo di bellezza per uno spazio indefinito, un deserto inospitale, in cui non si può far altro che continuare a marciare, e sempre più faticosamente sulla sabbia. Thank you. Xam, questo è Cora Jazz Trio, siete su Radio Wombat, questa è Nervature e io sono a duo. Vi invito ancora a scrivermi sul pad dal link diretta@wombat.vado.li, ma ora ancora un po' di musica con Lura e questa è Bida Maria Du. Triste vida mariado, pensa no timo quinta face, core dia nada catacho, desespero uma mulher doendo. Minha filho onde bustanha mãe, bacho bebida, vida triste vida mariado, pensa no timo quinta face, core dia nada catacho. Dado de mo beijado, tem que ter força de vontade. Na pobreza e prospera tempo, leva com coragem nos dia a dia. Minha filha aperta a cintura, cabo desanima não. Vira cadado de mo beijado, tem que ter força. capitolo Il mondo senza ninfe. Cambio di scena, la città moderna, un mondo inabitabile. Il culto della macchina, gli ultimi spazi dell'incanto e la loro graduale distruzione. Esistono ancora dei luoghi che sfuggono alla storia? L'espulsione degli dèi non poteva non trasformare l'aspetto del mondo, cioè lo spazio in cui viviamo, ed è nella città che questa trasformazione può essere percepita più facilmente. Un tempo la città scaturiva da un territorio, manteneva legami stretti, anzi vitali, anche su un piano estetico, con la campagna che la circondava e la nutriva. Capitava che i poeti ravvisassero montagne nei templi e nelle cattedrali, vallate nelle grandi piazze e strette gole nei vicoli. Abbiamo già ricordato l'importanza, per le città dell'antichità, dei boschi sacri, che le mettevano in comunicazione col paesaggio naturale circostante. Da più di un secolo, a seguito dell'industrializzazione e del processo di urbanizzazione, la città si è gradualmente affrancata dal suo territorio fino a diventare un mondo a sé, una creazione interamente artificiale, autonoma, nemica giurata del mondo naturale. Non è costituita che di spazi freddi, inospitali, tutti simili tra loro, tanto che presto faticheremo non poco a distinguere i quartieri moderni di Londra da quelli di Manchester o di Berlino. Questi luoghi anonimi, insulsi, fatti per le masse e non per l'individuo, sono unicamente dei sostituti di ciò che un tempo erano i luoghi della vita umana. Sono l'espressione di un'idea astratta e quindi disumanizzante dell'uomo. La città risponde esclusivamente a criteri di funzionalità, gli unici che lo spirito borghese sia in grado di concepire. Il nostro bisogno di vivere in un mondo provvisto di significato, capace di esprimere il vero, intimo spirito del luogo e quello della comunità umana che lo abita, la città non è più in grado di soddisfarlo. Così, per rispondere al bisogno di vicinanza alla natura, nelle strade davanti agli edifici pubblici si piantano orribili aiuole fiorite e file di platani malaticci, oppure si progettano quei surrogati dei giardini chiamati parchi urbani. Come stupirsi allora che l'architettura del passato sia sempre più attraente della moderna? Un antico villaggio con le sue povere case strette attorno a una chiesa o a un castello non possiede forse più carattere dei nostri moderni quartieri, tanto ordinati da sembrare plastici a grandezza naturale? Quei vecchi edifici non sono stati costruiti da famosi architetti, ma da gente umile, contadini e artigiani che probabilmente non sapevano né leggere né scrivere e che utilizzavano tutto ciò che trovavano sul posto. Le pietre dei campi, il legname dei boschi, l'ardesia che riposava da millenni nel cuore delle colline. Si lasciavano guidare dallo spirito del luogo, il solo che conoscevano, e costruivano per i loro figli e i figli dei loro figli. Nelle città e nei villaggi dei paesi poveri del sud Europa non si ha forse la sensazione, persino passeggiandovi da turisti, di percorrere un mondo ancora capace di accoglienza? In quelle stradine, a volte labirintiche, costruite nei secoli grazie all'intuito e all'intelligenza delle persone del luogo, non ci si perde mai. Ci si sente a casa. E ciascuno di questi villaggi possiede un'atmosfera propria, un'individualità, quel non so che permette di riconoscerlo da tutti gli altri. Proprio in questi momenti, quando viene da fare il confronto, avvertiamo fino a che punto nelle nostre moderne città siamo divenuti come dei nomadi che hanno smarrito e da tanto tempo la loro stella polare. Quanto la fede nel progresso rimpiazza le antiche credenze, tanto la macchina ha occupato il posto lasciato vacante dagli dèi. Senza che ce ne rendiamo conto, la sua presenza occupa uno spazio sempre più ampio nelle nostre vite. I romanzieri più estrosi raccontano che non è lontano il giorno in cui conquisterà l'indipendenza dalla volontà dell'uomo. E la religione della macchina è infinitamente più distruttiva e disumana dei sanguinosi culti aztechi o delle tribù antropofaghe. Sia come sia, verrebbe da dire che l'umanità ha comunque bisogno di affidarsi a qualcuno di più potente di lei. Cosa posso farci? Non sono mai riuscito a superare la mia allergia per la tecnologia moderna. Tutte le grandi innovazioni che si abbattono sulle nostre vite trasformandole da cima a fondo, dalla macchina a vapore all'automobile, passando per il telegrafo, mi indispongono. Per quale imperscrutabile ragione questi apparecchi sono sempre brutti, producono suoni sgraziati e soprattutto impoveriscono il mondo? Se la città moderna ha per scopo di affrancare l'essere umano dalla realtà, collocandolo in spazi totalmente artificiali e funzionali, la tecnologia mira a emanciparlo dal lavoro manuale, dall'opera del corpo, senza la quale l'opera dello spirito è nulla. Quella libertà non è che un miraggio, naturalmente, e la tecnologia non può che sfociare, ma cominciamo appena ad avvertirlo, nell'alienazione. Fuori dalla finestra del mio studio scorgo la pala e la zappa che stamane Samuel, il mio giardiniere, ha appoggiato contro il muro. Come non ammirarne la bellezza? Nei secoli, grazie all'ingegnosità degli uomini, questi utensili di legno e ferro sono andati migliorando sino a raggiungere la perfezione. A quel punto hanno smesso di evolversi, ma continuando non di meno ad accompagnare l'uomo nel lavoro della terra. L'idea che la tecnica e gli utensili debbano continuare a progredire è un'assurdità moderna che si è riusciti a far passare per legge di natura. Ancora una volta basta rivolgere lo sguardo alla società primitive. Esse vivono da millenni, una generazione dopo l'altra, in armonia con il mondo che le circonda, con le bestie, le piante, le montagne e con i loro utensili, i quali risalgono a tempi immemorabili, quando non sono addirittura dono degli dèi. Come la nostra pala e la nostra zappa possiedono sempre una bellezza che non può essere disgiunta dalla loro utilità, perché appartengono a una cultura il cui bello è l'utile, non se ne abbiano a male né i filosofi, né il filosofo borghese né il marxista, sono una cosa sola. Quanto lontano da tutto questo ci ha portato la tecnologia moderna, in così breve tempo? Come appare perso per sempre quel mondo di cui ci parlano gli attrezzi del giardiniere? Restano ancora, in Occidente, dei luoghi incantati, abitati dall'invisibile. Sono luoghi in cui un tempo gli uomini hanno costruito templi e chiese, o resistono i ruderi di antiche città e castelli. Talvolta basta una sola pietra per far nascere tutto intorno un luogo vero, per raccontare una storia. Se questi posti hanno saputo conservare un'anima, è perché l'avanzata massiccia della storia li ha risparmiati. Sono, insomma, dei superstiti, o se preferite, dei luoghi fantasma. Spesso li si incontra per caso. Talvolta, di primo acchito, ci deludono, sembrano abbandonati, trascurati, cosa che invariabilmente mette a disagio l'uomo civilizzato, così amante dell'ordine e della pulizia. Nella maggior parte dei casi non sono molto edotti dalla storia del sito e non siamo molto edotti sulla storia del sito. E altra cosa che ci disorienta, non sappiamo granché di dove ci troviamo. Entrandovi però, persino il razionalista più incallito comprende che non si tratta di un luogo neutro. L'aria che vi si respira è diversa, e altrettanto diversa è la qualità della luce. Lo spazio è come carico di una strana densità, di una profondità insodabile, come se qualcosa della vita degli uomini e delle donne che lì hanno pregato, amato, sofferto e sognato avesse resistito allo scorrere del tempo, via via modificando il sito fino a farne ciò che è. Come se il luogo fosse un organismo vivente che ha messo in atto la propria metamorfosi sotto gli effetti del vento, del sole e del tempo che scorre. Sì, pensiamo, qui sta accadendo qualcosa. Qualcosa inscritta nelle forme visibili di questo luogo così particolare. Qualcosa ci interroga. Le domande, naturalmente, noi non le comprendiamo più. Sono formulate in una lingua che abbiamo dimenticato. Si tratta forse di un idioma delle origini, appreso ancor prima della nostra madrelingua? E da dove viene questa voce? Ma non importa, la presenza che percepiamo risveglia qualcosa in noi, ci chiama, forse ci stava aspettando. Non è forse come certi versi o certe musiche che si aprono per caso una strada nel nostro cuore e poi ci restano dentro per giorni e giorni? Ecco, ora lo sappiamo. Ci troviamo in un luogo, un vero luogo. Ma, ahimè, la storia non può più fermare la sua marcia irresistibile. Capita che torni sui propri passi per cancellare ciò che aveva dimenticato nella fretta, segnatamente queste reliquie del passato, inutili e un poco ingombranti. Poi riprende la sua corsa, sempre più vertiginosa e sempre meno gioiosa. Così i veri luoghi scompaiono uno dopo l'altro, insieme al loro mistero, alle storie che custodivano, al loro silenzio benedetto. Se non vengono semplicemente distrutti, li si trasforma in monumenti. In questo caso, dopo essere stati restaurati in modo da sembrare più giocattoli che luoghi reali, diventano siti turistici. Niente più tace il loro mistero, ma che importa? Finalmente servono a qualcosa, attrarre visitatori affamati di distrazioni. I luoghi si ritrovano così trasformati in scenari dove il turista, cioè il povero erede di ciò che un tempo era il viaggiatore, inscena la propria capacità di meravigliarsi di fronte al mondo. Antichi castelli, cattedrali gotiche, torri e cappelle abitate per secoli dal silenzio diventarono involucri vuoti e ripuliti a dovere per riempirsi delle esclamazioni estasiate dei visitatori armati delle loro Baedeker. Nella nostra epoca si sradicano il nomadismo, il flagello del turismo non può che dilagare. Oggigiorno la clientela della celebre agenzia di viaggi Cook è costituita unicamente da borghesi ammalati di irrequietudine. Ma cosa accadrà quando tutti, compresi i meno benestanti, disporranno dei mezzi per concedersi questo surrogato del viaggiare che è il turismo? Ciò lascia presagire una distruzione completa e sistematica di qualsiasi vero luogo sopravvissuto in questo arido mondo occidentale. Lo stesso accade ai bei luoghi creati dalla natura. Per loro l'alternativa è semplice. Scomparire o trasformarsi in spazi protetti, in musei a cielo aperto, i cosiddetti parchi nazionali, in cui la natura selvaggia è controllata da agronomi e guardie forestali, tutti armati di buona volontà. Il turista è invitato a sperimentare avventure ancora più eccitanti in seno alla natura primordiale. Tutta finzione, tutta messa in scena. Gli uomini civilizzati giocano per qualche ora al buon selvaggio, provano un brivido leggero mentre si avventurano. Un luogo lungo un sentiero marcato da segnali in una foresta oscura e minacciosa. Cosa resta di bello e semplice in questo mondo? Esiste un posto dove è ancora possibile respirare liberamente? Ci sono luoghi che sembrano resistere meglio a questa distruzione lenta e apparentemente inevitabile. Luoghi che riescono a preservare la propria anima e che la stupidità della civiltà non riesce a edulcorare facilmente. In questi luoghi l'esperienza della bellezza, del mistero vivente dell'essere è ancora accessibile ai comuni mortali. Naturalmente. Sto parlando dei giardini. Changera, burin yo burin yo, no quiero. n'ungolo fuwa Gamu bingi kiasi Mwe ne wando kala benyaba E mengondo ya mye Namona mwenye Suya weza Mona mwenye Kaluga mumba Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Aluke n'ungolo fwa Gamu bingi kiasi Mwenye wando kala benyaba E mengondo ya mye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga mwa Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga mwa Aluke n'ungolo fwa Gamu bingi kiasi Mwenye wando kala benyaba E mengondo ya mye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga mwa Sambi wangi pana mona Kamu valele Mwenye wando kala benyaba E mengondo ya mye Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi pana mona Gamu falele Mwanyeze wando kala benyaba E mengondo ya mye mwenye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Aluke n'ungolo fwa Gamu bingi kiasi Mwenye wando kala benyaba E mengondo ya mye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi pana mona Gamu valele Mwenye wando kala benyaba E mengondo ya mye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi pana mona Kamu falele Mwanyeze wando kala benyaba E mengondo ya mye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Queste canzoni che avete ascoltato sono Bitele di nuovo Cora Jazz Trio e quest'ultima invece Mona King Xika di Bonga. Ma torniamo adesso al nostro libro. Capitolo: Uno strano incontro nel parco di Seo. Nonostante la mia avversione istintiva da buon britannico d'adozione nei confronti dei giardini alla francese, è in un parco progettato da André Lenôtre che ho accolto per la prima volta la preziosa unicità dei giardini. Accadde molto tempo fa, qualche settimana dopo, che mi ero stabilito a Parigi. Arrivavo dall'Italia, la mente piena della magia dei giardini di quel paese, a confronto dei quali i parchi classici francesi mi sembravano puri esercizi di stile. Come dice spesso il mio eccellente amico Sir George Sitwell, i francesi hanno preso tutto dai giardini italiani, tranne la poesia. Ma ciò è vero solo in parte. Qualcuno mi aveva consigliato di visitare il parco di Sceaux, a qualche miglio dalla capitale, progettato dal famoso Le Nôtre. Genio assoluto, insuperabile, dell'arte dei giardini, eccetera, per Colbert, ministro del Re Sole. Senza molta convinzione, un sabato mattina d'autunno presi di buon'ora il trenino per Sceaux. I cancelli del parco erano chiusi da catenacci. Un passante mi spiegò che il sito era divenuto proprietà pubblica e che presto lo avrebbero risistemato, ma per il momento, visto il suo stato di abbandono, era chiuso ai visitatori. Ciò, è inutile dirlo, non fece che acuire il mio desiderio di vedere quel parco tutto a un tratto divenuto interessante, e una visita che si annunciava noiosa si trasformò in avventura. Non fu difficile trovare un punto dove scavalcare il muro di cinta, e una volta dentro mi ritrovai in uno dei luoghi più meravigliosi della terra. In effetti il parco era abbandonato. Ogni tanto i giardinieri dovevano falciare l'erba o tagliare qualche ramo affinché i viali restassero praticabili. Ma a tutti gli effetti si trattava di una giungla, un luogo talmente suggestivo che mi chiesi se non stessi sognando. Non v'era dubbio, ero ancora a letto nella mia camera d'albergo a Parigi e stavo sognando del parco che avrei visitato. Perché era un luogo come quello che avrei voluto vedere, un grande giardino, un tempo sontuoso, con le sue statue, le sue ampie prospettive, i suoi canali di acque ferme, ma lasciato a se stesso. Ammiravo la maniera in cui l'erbaccia riprendeva possesso dello spazio. I gradini sfondati dalle scale, le balaustre lungo le quali correvano le clematidi selvatiche e l'edera, i boschetti trasformati in foreste, le sculture mutilate, e ripensavo ai miei cari giardini d'Italia. In una radura mi imbattei nelle statue di Castore e Polluce. I due fratelli mitologici, fianco a fianco, abbracciati, mi salutarono spuntando dalla sterpaglia. Il sole appena tiepido del mattino svelava il sorriso dolce dell'uno e lo sguardo abbassato, più timido, dell'altro. Feci loro un cenno con la mano e proseguii. In certi punti l'erba alta dei prati, umida di rugiada, mi arrivava alla vita. Giunto alla vasca dell'ottagono, mi sedetti per contemplare nell'acqua stagnante il riflesso delle chiome dei platani che attorniavano lo specchio d'acqua, ingiallite dall'autunno. Un tempo, quegli stessi alberi, quei rami ora ondeggiavano dolcemente sulla superficie dell'acqua, venivano potati ogni anno a regola d'arte. Finalmente, liberi, avevano ripreso la loro forma naturale. Il silenzio era perfetto. A un tratto la vidi. Era in piedi, in mezzo a un vialetto, e mi guardava. Compresi che il suo sguardo si limitava ad attraversarmi per perdersi oltre, nel bosco alle mie spalle. La testa reclinata da un lato rifletteva. Forse riandava con la mente a quando il parco era frequentato dalla nobiltà europea, ai tempi in cui niente meno che il Re Sole lo aveva visitato, accompagnato dal suo codazzo ridicolmente pomposo, agli amori, agli intrighi di cui era stata testimone, di cui noi non sapremo mai nulla. A un certo punto i suoi occhi incontrarono i miei e mi riconobbe. Come prima Castore e Polluce, ne ero certo perché ora sapevo che in realtà non stavo sognando ed ero proprio lì, in quel parco abbandonato, mi fece un cenno con la mano. La riconobbi anch'io. Era Flora, la dea romana delle fioriture e della primavera. Nel giardino silenzioso, percorso dai brividi del mattino, era felice. La sua beatitudine saltava agli occhi. Da dove le veniva? Dal silenzio, dall'abbandono in cui luogo si trovava, senza dubbio, e dalla solitudine che regnava incontestata nel giardino. Fatta eccezione per me, non v'era traccia di essere umano, né di sguardo che tentasse di domare, di chiarire, di spiegare. Il parco era popolato solo dagli alberi, dagli uccelli e dalle statue. La vita scorreva tranquilla. Uscendo dalla proprietà mi dissi che nulla supererà mai in bellezza un giardino un tempo soggetto a regole, architettato fino alla follia, perfettamente addomesticato, che ha ritrovato la libertà. Quando con squadra e compasso progettava il parco Seo, le nostre avrebbe mai pensato che quel luogo avrebbe raggiunto la perfezione solo secoli dopo, una volta lasciato a se stesso? Il genio di questi giardini alla francese non dovrebbe essere cercato proprio qui, più che nella freddezza della loro perfezione formale? Seduto sul treno che mi riportava in città, ripensai anche al futuro che attendeva il parco di Seo. Il pesante mi aveva detto che i lavori di recupero sarebbero stati avviati di lì a poco. E cosa sarebbe diventato quel giardino che mi aveva reso tanto felice, mi chiesi, una volta trasformato in parco pubblico, nuovamente visitabile? E cosa sarebbe stato di quelle divinità melancoliche e sorridenti, ancora ignare di ciò che le aspettava? In questa puntata avete sentito una parte del libro E il giardino creò l'uomo, altrimenti chiamato Le Jardin Perdu, nella edizione originale francese. libro di Jord Pressy non è finita qui, quindi ve lo riproporrò successivamente in qualche puntata di Nervature. È un libro a cui tengo molto, infatti programmo già di non solo leggervelo ma anche commentarlo una volta probabilmente che sarà finito. E io non so bene come sia possibile, ma siamo già arrivati all'ora di fine di questa puntata odierna, e anzi siamo andate oltre l'ora di fine. Io vi assicuro che pensavo che fossimo in tutt'altro orario. Mi sono a quanto pare persa nello scritto e anzi nel leggere. Ringrazio per i commenti sul pad, ringrazio davvero davvero tanto, è sempre un enormissimo piacere essere qui in radio con voi e soprattutto appunto ricevere i vostri feedback. E devo dire che la diretta è sempre ha sempre una marcia in più, è sempre magica. E, io allora non mi resta che salutarvi e quindi ci sentiamo lunedì prossimo, sempre lunedì alle 19 con me, Addu e chissà chi altro, qui su Radio Wombat su Nervature, e vi lascio con un ultimo pezzo sempre dei Cora Jazz Trio, ormai oggi mi sono di grande aiuto devo dire. Quindi vi auguro una buonissima serata, rimanete ovviamente connesse su Radio Wombat per seguire tutte le successive programmazioni di questa sera. Quindi buona serata a tutte e buon ascolto. Questi sono di nuovo i Cora Jazz Trio. Là, problemi tecnici qui, accidenti, mi si è interrotta la canzone. Sì, come sapete non è la prima volta e ci sono problemi tecnici qui in regia, ma speriamo che si riprenda brevissimo. Eccola qui, riproviamoci, dai, vediamo come va. Thank you.